potessi tornare indietro, non chiederei seconde occasioni, non toccherei niente, neanche errori o passioni. Vorrei solo guardarmi da un angolo in silenzio, come chi passa e saluta senza restare dentro. Non per cambiare il finale, né per salvarmi da me, solo sentire il respiro di quello che è intorno senza chiedermi il perché. Vorrei entrare in quella stanza, aprire piano la porta e stare fermo un momento finché il cuore ricorda. Poi uscire senza fare rumore, lasciare tutto com'è, tornare qui dove sono con quello che resta di me. Rivedrei certe mani che mi portavano a casa, certe frasi leggere che il tempo ha tenuto per non farsi scordare. È solo luce che passa senza doversi fermare, non per chiedere scusa né per dire di no, solo stare a guardare chi ero e chi poi sarò. Vorrei entrare in quella stanza, aprire piano la porta, restare fermo un momento finché il cuore ricorda. Vuoi uscire senza fare rumore, lasciare tutto com'è, tornare qui dove sono con quello che resta di me. Perché il tempo non è una ferita, se smetti di volerla guarire, è una strada che puoi attraversare senza il bisogno di capire. Vorrei entrare in quella stanza senza cambiare in passato, solo sedermi un istante dove ho amato e sbagliato.